iscrizione obbligatoria. La direzione si riserva il diritto d'ingresso. È gradita l'eleganza. Ho fatto tardi anche questa notte. Ero a ballare in una discoteca di quelle chic con la selezione e butta fuori che sembra uno stallone. Chissà perché sono sempre incazzati. C'era la fila anche per entrare, ma le fighette potevano passare, mentre per noi non c'era niente da fare tranne aspettare senza criticare. Sottomettiamoci. E dopo un'ora tra spinte e leccaculo siamo riusciti a entrare pure noi. Mi domandavo chi me l'ha fatto fare di rifinire in questo bordello. Tenete d'occhio questo strimpellatore, è un pericoloso sovvertitore del sistema. Ma in discoteca cosa ci vado a fare? A ballare cosa ci vado a fare? Se per entrare devo superare la selezione di chi vuol giudicare. Che sta bene. Se son vestito bene oppure male, se sono giusto per quel bel locale, se le mie scarpe non sono sportive, se la mia faccia non è troppo strana. Bellini voi. Ma cosa sarà quella polverina bianca sul tavolino? Volevo bere, ma meglio evitare, per non finire senza la patente. Il palloncino è terrorismo puro, solo censura, buonismo, perversione. Pensate ad aggiustare le strade. E allora ho detto, prova a rimorchiare, e ci ho provato in tutte le maniere. Ne avrò fermate almeno una ventina, inutilmente, tanto è sempre uguale. Non ho voglia di parlare. Perché le donne nelle discoteche, chissà perché, sono tutte vampe. E sono brave con mille sortilegi ad evitare le compromissioni. Già, siamo tutti maniaci sessuali. Ma cosa faranno quando ritornano a casa da sole? Ma in discoteca cosa ci vado a fare? A ballare cosa ci vado a fare? Se non posso bere e rimorchiare, se non posso nemmeno un po' scazzare. Ogni donna là dentro se la tira, ogni figa là dentro se la tira, e si crede di essere una VIP, è convinta d'avercela d'oro. Che le dive facciano le dive, che i DJ le facciano ballare in discoteca. Cosa ci vado a fare? A ballare, cosa ci vado a fare? Letterine, veline, paperine, occhine, occhine, top model, porno star, ballerine, stitie.